Windsor Town. Sul deserto fanno il samba shooting. E c'è chi balla qui, ma forse questo è un brutto sogno e poi mi sveglierò. Addio Desert Town, io devo urlarlo al mondo così il mondo lo saprà. Che viva, che viva, che viva, che viva! Ah, ah. Viva Cangasero, viva Cangasero! Viva Cangasero, viva Cangasero. Vola cavallo vai, io non sento niente, perché non ho paura, mi han detto è pura fantasia. Fantasia. Sono il capitano, il samba è giusto, ma è la testa che non va. Ti dico per chi sto, tu dillo per chi stai, devi urlarlo al mondo così il mondo lo saprà. Yeah, ah, ah. Viva Cangasero, oh, oh, oh, oh. Viva Cangasero, oh, oh. Ah, yeah. Viva Cangasero, viva Cangasero, bandito. Tonda, e se il mare è blu, da che mondo è mondo il forte vince non sei tu. Se la terra è tonda e se il mare è blu, da che mondo il forte vince non sei tu. Se la terra è tonda e se il mare è blu, da che mondo il forte vince non sei tu. Ah, ah. Viva Cangasero, bo, bo, bo, bo. Viva Cangasero. Opa! Opa!